mi scorderò mai del passato che ho, non mi scorderò mai della storia che ho, e mi cerco da un po', tu mi cerchi da un po'. Ci sono tante persone che mi cercano bene. Sono io già da un po' nei difetti che ho. Sono io questo qua, occhi stanchi e la barba nei miei. Nel mio parere, ma nel mio libro sono troppe le parole, sono troppe le persone che io voglio ricordare. Un foglio scritto non si può più cancellare, ma c'è sempre spazio per aggiungere a tutti quelli che siamo noi, a tutti quelli che sono qua. Senza no, l'unica ragione del mondo che ho, a tutti quelli.